amore quanto è bello, spiro tanto sentimento, gamma tua chi viene mendo, ascetato vai sul là. Guarda qua chi sto giardino, siente si esti su d'orange, lo profuma così il vino, quinto cora se ne va. E tu dici parta Dio, da lontano del tuo cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore in un turno. Ma non me la sa, non darmi sto dormiendo, torna. Riento che tesoro te ne impugna, ti ha girato tutto il mondo, nulla miste con la casa. Guarda giorno si serene, cade guarda non cantare, ecco buono tanto bene, che vuole essere Dio, da lontano del tuo cuore.